Voglio, mi raccomando, tutti in coppa Radio Bomba a talora un caffè, tutti i mercoledì. Radio Contado come tutti i mercoledì. Teatro, poesia, un po' così. E Radio Contado. Vogliamo alti. Benvenuti, benvenuti. Ah, oh oh. Oh oh oh. Chi c'è? Radio Contado, gli scuri anfratti di frittole, oggi puntata molto ricca e interessante. Li abbiamo in pugno. Frittole. Radio Contado, chiocciola insiberia.net. Eccoci qui. Eccoci. Buon pomeriggio. Con la con il mirabolante ritardo di 35 minuti. E tutta è chiaramente Mamma Wombat, come sempre. Amo questo programma perché i suoi contenuti sono autogeneranti. Ci garba stare insieme, ci garba la terra. Radio Contado, l'ascoltano proprio cani e porci. Come si arriva, come è arrivato questo vombato a spuntare con la sua tana proprio qui a Frittoli? Beh, diciamo che il vombato è già stato altre volte in ambienti vicini a Genome Larons, l'abbiamo visto nelle dirette di un paio di occasioni tra i giorni di questa primavera, e c'è stato qualcosa anche di invernale, che era invece un incontro sull'autonomia e sull'autodeterminazione territoriale. E che devo dire, è stato amore a prima vista. È stato un incontro che è passato anche attraverso Piazza Tasso, altro appuntamento di cui spesso e volentieri ci troveremo parlando. Cos'è Piazza Tasso? Piazza Tasso è un mercato, ma in realtà il mercato è solo uno dei tanti prodotti, è un momento di incontro che la comunità di resistenza Jérôme Larons ha creato con un percorso politico di assemblee e di incontri per poter dare dei prodotti buoni e genuini, ma soprattutto informazioni su quello che succede nel mondo della ruralità, in diretto contatto con i contadini e i produttori della zona che fanno parte, insomma, di questa corrente, si chiama anche Genuino Clandestino. È un luogo dove potete incontrare persone, potete trovare buoni prodotti, potete partecipare ad iniziative che servono soprattutto per sensibilizzare, per informare come Radio Wombat delle informazioni che siano genuine, autentiche e non guidate da questo sistema. E tutto questo per essere qui oggi finalmente a raccontarvi quello che succede, quali saranno le attività, le prossime attività, ma cercheremo in tutti i modi, insomma, di tenervi aggiornati su tutto quello che c'è da sapere, appunto, sulla contadinanza attiva, si può dire, la contadinanza. Assolutamente attiva. Sì. Su temi formativi ve li annunceremo, e poi anche soprattutto tante dirette dal campo a parlare proprio con chi fa parte di questa comunità di resistenza contadina. Radio Contado, la voce della ruralità su Wombat Radio. Quattro abbracci su un caffè. E eccoci qua, benvenute e benvenuti, con il consueto ritardo di una buona mezz'ora abbondante. Non ci smettiamo mai. Vabbè, giustificate, la puntata 100. Clip dei microfoni a questo urlo di gioia. Avete sentito bene, la puntata numero 100 di Radio Contado. Ci siamo arrivati a questo bellissimo traguardo. Assolutamente sì. E brave, bravi, oggi è una puntata di... È una puntata a colori oggi. Una puntata a colori, grandi pacche sulle spalle. Staremo due ore a dirci brave, bravi. Ci gongoliamo. E ricordi, autoreferenzialità ricordi, pura ricordi. Sì, sì, un siamo po' di bravi. Nostalgia. Ogni tanto ci vuole anche un po' di autoreferenzialità. E se siete arrivati ora in quel di Radio Wombat, siete chiaramente su Radio Contado come ogni mercoledì. Ed è la puntata 100. E ci potete ascoltare su radiowombat.net, ci potete scrivere a radiocontado@insiberia.net. e sentite questo compressore come funziona bene. E soprattutto scriveteci, perché la prossima festa sarà alla mail numero 100. Scriveteci su radiocontado@insiberia.net e la puntata è iniziata con questo collage di, diciamo, ad opera del reverendo, di vari estratti di puntate precedenti, e potete ascoltarle tutte 99 più la puntata 0 più la puntata 0 su Radio Wombat, appunto, andando sulle trasmissioni, Radio Contado c'è. Sì, e appaiono, ci siamo quasi tutti oggi, è arrivato anche il Rubido, piano, e poi ne aspettiamo tanti altri ancora, e così come tanti altri nostri cari co-conduttori non ci potranno essere, ma vedremo se riusciremo a raggiungerli con una telefonatina, o ci raggiungerà almeno il nostro saluto. Sì, perché nel caso nessuno ci avesse mai ascoltato, dovete sapere che Radio Contado ha coinvolto nella sua storia decine e decine di redattori, centinaia di collaborazioni, e oggi proveremo a fare un minimo di panoramica. E quindi... Ma soltanto pochi sono resistiti, oggi ancora qui, diciamo, c'è un ricambio annuale, che uno dura in questa anno. Cosa me la posso congolare un po' come autoreferenzialità, sono l'unica che sopravvive dall'inizio. E lei è la dama, un applauso dalla puntata numero 0 alla puntata numero 100. Lei c'è. Bene, caro Reve, cosa facciamo? Mandiamo una musichetta? Allora, sì, io volevo dire che stiamo mandando solo canzoni pescate a caso dalla cartella della prima stagione di Radio Contado. Tranne, forse, se decideremo due, che la nostra Grebana, che anche oggi si è rifiutata di venire in radio. No, infatti. Ci ha maledetta Grebana, amore e odio neanche per alla cento, neanche all'accento. Si è degnata di passare da Frittole. Allora, i Modena City Ramblers con i 100 passi? No. Quindi, vabbè, l'abbiamo nominata, Grebana, sappilo. Ti abbiamo nominata per dire che le tue canzoni non le manderemo. Però ci hai consigliato Saint Foy dei Cabazzi, e possiamo mandarla. Che dite? Va bene. E poi sarà tutto un puntatone revival. Dai. Con qualche giusto, qualche pillola di novità. Di novità. Je me suis quand même pas fait beau 100 fois pour rien. Je t'ai quand même pas imaginé nu 100 fois pour rien. Je n'ai quand même pas gâché 100 bouquets pour rien. Je n'aurais pas marché pour rien. Je te le promets, je ferai 100 fois le tour. Je te le promets, je pousserai les parois tout autour. Je te le promets, j'y arriverai. Je te le promets, je te plairai. Je te le promets, je pousserai les parois tout autour. Je te le promets, tu l'oublieras. Je te le promets, tu l'effaceras. S'il te plaît, juste une fois. Il y avait toujours vous deux, il y avait moi. Le gars dans les bras duquel les filles ne tombaient pas. J'allais pas tenir la chandelle toute ma vie, tu voulais que je fasse quoi? Oui, je suis derrière les barreaux, mais je rêve encore de faire les gros titres des journaux. La Belle et le Prisonnier, ça ferait un film que j'aurais largement mérité pour ces années. Je n'ai quand même pas fantasmé 100 fois tes mains, tes cheveux, tes seins pour rien. Je n'aurais pas dit 100 fois le temps jouera pour moi. 100 fois mon heure viendra, 100 fois reprends-toi. 100 fois pourquoi t'oses toujours pas, pourquoi t'oses toujours pas. Je te le promets, je ferai 100 fois le tour. Je te le promets, je pousserai les parois tout autour. Je te le promets, j'y arriverai. Je te le promets, je te plairai. Je te le promets, je ferai 100 fois le tour. Je te le promets, je pousserai les parois tout autour. Je te le promets, tu l'oublieras. Je te le promets, tu l'effaceras. S'il te plaît, juste une fois. je rêve encore de la belle et du prisonnier. Je pense au film que ça ferait, au tapis rouge pour toi et moi. Enfin une fois, tu seras en robe et je serai beau gosse. Enfin une fois, je t'écris pour te dire que je t'attends. Malgré tout, malgré les murs en paysage, malgré les chaînes et les poulets, malgré la chambre sans rivage. Une heure suffirait, je me serais pas dit 100 fois, soit lui, soit moi, pour rien. Une heure suffirait et je n'aurais pas fait 100 fois le tour de ma cellule pour rien. Une heure suffirait et je n'aurais pas regretté 100 fois mon ami, mon proche, à mon rival pour rien. Tout à l'heure, il m'amène vers la fin, là où l'amour et nos morts se mêlent. Donne-moi juste une fois, belle, tu ne risques rien. Je te promets, je ferai 100 fois le tour. Je te promets, je pousserai les parois tout autour. Je te promets, tu l'oublieras. Je te promets, tu l'effaceras. Juste une fois. Allora, Giampi mi ha regalato questo amaro che dice che non è dolce. Pare sia amaro. Non lo so, eh. Dolce non è. Sembra la mia vita! Amaro. Vero amaro. Vero amaro. Direi. Amaro la vita. Amaro come la vita. Ma quanto ci manca Air Camicia? Questo era uno dei nostri spot pubblicitari, perché in questi anni abbiamo anche, siamo diventati una radio seria, abbiamo anche gli spot pubblicitari. No, effettivamente anche noi siamo soggetti alla pubblicità, le pubblicità che ogni tanto ci impongono i nostri finanziatori dall'alto, per fior fior di quattrini. Ma intanto è arrivata un'altra. Eccola, è rimusa. Sì. Ah. Scrivete a Radio Contado. Mi stavi già censurando, mi era dal microfono e poi... Scrivete a Radio Contado, che ho c'è in Siberia. Net, di chi è questa meravigliosa voce femminile che era da un po' che non sentivate? Era un po' che non c'era. Un po' tanto, eh. Devi stare attento a un po' tanto. Ma come mancare oggi? Con oggi hai riscattato il tuo onore. La modesta. Troppo modesta. Allora, però, scusa, era una grigliuzza. Doctor, ma sei veramente sleale. Non gestisco le emozioni e le sorprese. Beh, sciupo le sorprese. Vabbè, l'emozione fa anche questo. Però abbiamo un'altra voce per l'AgriQuiz. Possiamo puoi dirci chi non sei? La voce è stata definita la più sensuale o più gettonata. Ecco. Qualcuno tempo fa ci disse addirittura dalle comunità nell'Orvietano, chiedevano: ma di chi è quella voce meravigliosa che lei e poi sexy, dopo che hanno tristemente scoperto di chi era, hanno abbandonato hanno smesso di ascoltare Radio Contado hanno smesso di ascoltare la radio. Ah vabbè era lui. Di nuovo comunque posso testimoniare che non è la prima volta, perché in una nostra trasferta a vicino Napoli fecero una puntata di una radio che però non andava in onda. Cosa Radio Plaza e anche lì ricevette molti complimenti per la voce radiofonica e sensuale, vedo. Sì, era sparata a mille in mezzo a dei palazzoni di 10 piani dove la gente si affacciava per ascoltare direttamente la radio che era sparata a mille dagli altoparlanti. Era proprio una radio molto diretta, si trasmetteva per onde sonore. Quindi qui era oggi un comizio, una chiacchierata. No, era una chiacchierata, musica era chiacchierata, però in una piazza. In vera diretta. In vera diretta, sì. Quindi alla puntata numero 100 scopriamo che alcuni di noi radioconduttori ci definiamo amatori, già. C'è qualcuno che già aveva grandi, grandi esperienze di radio. Non ce l'avevi raccontata giusta, Ruvido? E tra l'altro salutiamo Radio Plaza che ci hanno scritto proprio una settimana fa chiedendoci indicazioni su come mettere il bottone dello streaming sul loro sito. Ma proprio a noi di Radio Contado? Io l'ho girata, infatti. Grande Radio Plaza. Sono dei grandi, noi li conosciamo. Grandi, ma io mi commuovo che ci chiedano addirittura con i problemi tecnici che abbiamo quando ci sono io, soprattutto in radio, delle delucidazioni. Sono commossa, grazie ragazzi, tanta stima. Ma io credo lo stesso lui. Chiedendo al reverendo, non credo che chiedessero a te direttamente. Non a me, direttamente, sei sicuro? Vabbè, ci avevo creduto. Ma nemmeno a me, ma nemmeno a me. Dunque, proviamo a fare un collegamento con Michele di Campi Aperti per darci un rapido, rapidissimo aggiornamento. Sarà probabilmente l'unica cosa seria di questa puntata. Perché comunque, nonostante abbiamo deciso questa puntata 100 deve essere un po' un revival di tutto quello che abbiamo fatto finora, quando c'è qualcuno che ci dice ha bisogno di comunicare o di dire o di confrontarsi su alcune cose, i microfoni aperti. Eccoci. Pronto? Pronto. Ciao. Ciao, benvenuto nuovamente ai nostri microfoni. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao Michele, sono il Ruvido, mi conosci, lo sai chi sono. Aspetta, sento male. Ciao Michele, dico, sono il Ruvido, noi ci conosciamo, ciao. Ma ora lasciamo perdere. Ciao Ruvido. Voleva farti sentire un po' più a casa, Michele, ma tanto tu ormai sei abituato alle nostre meravigliose voci di Radio Contado, ma noi vorremmo capire da te, insomma, che sta succedendo in quel di Bologna. In quel di Bologna tu stai parlando, come avete accennato, cosa succede al nostro mercato di Jagubetti, fu mercato di XM24, immagino. Esattamente. Allora, che dire, il mercato in quanto mercato va alla grande, nel senso che pandemia non pandemia, da quando insomma riusciamo a stare aperti, insomma il mercato è molto molto frequentato, la gente viene anche un momento di, nonostante tutto, di incontro, di socialità, per quanto limitatissima, insomma. Quello che succede è che ha creato un po' di problemi negli ultimi mesi, ultime settimane, è diciamo, quello che succede fuori dal mercato, nel senso che lì c'era uno spazio sociale che oltre al mercato aggregava centinaia di migliaia di persone, soprattutto il giovedì, il giorno del mercato, dove c'erano anche altre iniziative. Questo spazio è stato sgomberato 2 anni fa, il mercato è rimasto lì vicino e comunque quello è rimasto comunque un appuntamento per tante persone del quartiere e dei quartieri vicini, insomma, soprattutto giovani. E questo è bene, insomma, questo era quello che era stato annunciato all'amministrazione, il mercato comunque non se ne andrà e la gente continuerà a vivere quel luogo per quanto possibile, solo che adesso in tempi di pandemia questo non era più ammesso, ecco. All'interno del mercato noi abbiamo rispettato un po' le regole che il comune ci ha dato per rimanere aperti, anche giustamente, insomma, mantenendo un certo distanziamento, le mascherine, una perimetrazione del mercato, eccetera, e il mercato funziona in maniera abbastanza ordinata, però diciamo fuori l'assembramento libero dei giovani via via è cresciuto, poi con la primavera calda anticipata da questo anche cambiamento un po' climatico è esplosa e insomma si è iniziato ad esserci un poco di c'è di voglia lamentele. E bisogno di socialità, quello sicuro ed è positivo, Magari insomma, poi qui le opinioni sono diverse fra cittadini, anche all'interno del mercato, fra gli stessi attivisti della zona, i militanti, insomma, c'è chi è più prudente, chi è più attento, chi meno. Secondo noi, e poi tante anche iniziative politiche sono svolte in questi mesi, però con anche una certa attenzione, insomma, manifestazioni, presidi, c'è stato qualcosa che si è fatto anche sui temi della salute proprio in città. Diciamo, questo era un assembramento che stava diventando effettivamente anche agli occhi nostri un po' eccessivo, cioè quanto a poco prudente, ecco, diciamo, per conto mio, magari stare all'aperto, un po' distanziati, poteva essere una cosa assolutamente più sicura che non vedersi di nascosto nelle case come tutti fanno. Però insomma, lì stiamo parlando di centinaia, talvolta un migliaio di persone che rimanevano anche fino a tardi, portavano musica in maniera un po' autogestita. Tutto bello, però insomma un po' rischioso. Insomma, a Bologna i livelli dei contagi sono ancora molto alti, anche fra i giovani. Certo. E quindi niente, gli amministratori locali poi hanno fatto a gara a chi era più diciamo rigoroso di tutti, in modo anche ambiguo, coinvolgendo il mercato un po' in questa responsabilità, con minacce di trasferimento di cose, che il mercato doveva prendere distanze da tali comportamenti irresponsabili, eccetera. No, perché noi infatti abbiamo letto le giornalate che erano state fatte, esatto, a proposito, e sembra veramente che fosse successo il finimondo e che la responsabilità fosse proprio tutta di Campi Aperti. Inaccettabile. Esatto, noi cioè abbiamo, alla prima uscita di stampa del presidente di quartiere, abbiamo risposto rimandando un po' le accuse al mittente, nel senso, visto che lui stesso ammetteva che noi rispettavamo le regole all'interno del mercato, la nostra responsabilità finisce lì, quello che succede fuori è responsabilità loro, non è che posso rimandare a noi funzioni di ordine pubblico o di far rispettare i giovani che e le normative sui distanziamenti, queste robe qua. E quindi le minacce dopo di anche il mercato Campi Aperti potrebbe subirne conseguenze, eccetera, che anche alcuni consiglieri della destra hanno rilanciato dicendo bisogna spostare il mercato in un'altra zona, lontana da lì, li abbiamo lasciate perdere, perché comunque è fatta da gente che conta poco, e proprio per fare polemica in questo clima un po' pre-elettorale bolognese, insomma, dove su questi temi qua, insomma, si misurano un pochino le forze, ognuno fa finta di essere più bravo degli altri, ecco, a gestire la situazione. Chissà perché, ma tutto questo mi ricorda qualcosa. Forse Piazza Tasso? Che è di molto simile, che è successo anche a Firenze. Con i mercati. È successo anche da voi? Purtroppo sì, questo insomma dà un po' anche la misura di come viene utilizzata tutta questa problematica che viene avanti e indietro a seconda di come fa più comodo e di come si vuole in qualche maniera o screditare o vantarsi di qualcosa fatto che probabilmente non era così necessario fare. Quindi tutta questa cosa prima o poi la dovremo analizzare e affrontare più approfonditamente anche dentro ai nostri movimenti, che appunto, come dicevi te, hanno sensibilità personali molto diverse. Sì, noi questa cosa l'avevamo già pagata sulla nostra pelle a ottobre, quando è bastato un'interpretazione un po' confusionaria delle normative regionali per farci chiudere i mercati così, senza nessun motivo, senza che ci fosse ragione per riaprirci dopo qualche giorno, mentre noi facciamo mille proteste. Insomma, siamo come sempre un po' un anello sacrificabile per loro della filiera agroalimentare, mentre mai si mette in discussione, come abbiamo sempre detto, appunto, i supermercati, la gran distribuzione, eccetera. Quindi voi, perché facciamo anche altro tipo di lotte, siamo vicini ai movimenti ambientali, eccetera, voi perché comunque siamo all'aperto sotto gli occhi di tutti, quando vuoi far vedere che ti preoccupi tardivamente della salute pubblica, dai, chiudiamo i mercati per un po', ecco. Chiusura, quello è successo. Chiusura senza ragionamento, perché insomma il mercato all'aperto è sempre comunque, per quanto possa essere talvolta anche un po' affollato, e per fortuna, perché noi ci dobbiamo campare, però è comunque sempre più sicuro di uno spazio chiuso dove comunque il distanziamento è, diciamo, al buon senso di chi è lì dentro, ecco, non è mai con tutti i cartelli che possono mettere, la vigilanza e tutto, non è una cosa concretamente realizzabile. Infatti i contagi ci stanno e buonanotte, insomma, e speriamo di venirne fuori. Comunque giovedì scorso, non sappiamo cosa succederà bene domani, però giovedì scorso c'è stato un dispiegamento di forza pubblica tale che ha dissuaso qualsiasi attività sociale, di socialità nel parchetto. La polizia, con la Digos e camionette, era presente prima dell'inizio del mercato, e quindi chi arrivava faceva la spesa, andava via, e nessuno si è potuto attardare nel prato adiacente, insomma. Oh, che bella che bella scena. Questo è successo, non sappiamo per quanto succederà. Immaginiamo che la prima volta che non ci saranno le camionette, tutti i ragazzi torneranno nel prato, quindi questo ha anche un costo, insomma, gestire quello spiegamento di forza, ecco. Quindi boh, non lo so, se il comune e la questura dovevano comunque far vedere che qualcosa avevano fatto, agli occhi dei cittadini, che pare in tanti telefonano per fare segnalazioni eccetera, perché anche questo è una cosa che succede ormai da un anno, no? Dal tempo del lockdown, questa forma di delazione o insomma supposta responsabilità, il carognavirus, di quello che vedi e denunci, però fino ad allora, ecco, diciamo, molte cose erano state tollerate perché probabilmente non erano così ritenute così pericolose o comunque di difficile gestione, ecco. Stavolta si è voluto montare un caso, quindi a quel punto la questura interviene. Di quello che ci stiamo chiedendo tutti, per quanto tempo continuerà a intervenire, o non potendo recintare tutta quell'area come hanno fatto con alcune piazze, alcuni luoghi di ritrovo in città, a Bologna e anche altrove, insomma. Quindi quella è un'area molto grande, tra l'altro c'è una comunità africana, insomma, di migranti che vive quel parchetto tutti i giorni, e quel giorno si è spostata in un isoletta di un angolo di verde proprio accanto alla rotonda, così aspettando probabilmente che la polizia se ne andasse. Loro spesso alla sera si attardano là, fanno un fuoco, cucinano, stanno insieme con anche famiglie, con bambini, è un loro momento di ritrovo, e avranno detto, beh, facciamo passare anche questa e poi ci riprenderemo lo spazio, insomma, che probabilmente sa. Tutto il resto della settimana se lo tengono senza che nessuno gli faccia problemi, però il giovedì che ci siamo noi e effettivamente la gente era tanta di più, insomma, per ora è finita così, e poi vedremo, teremo osservazione, vi faremo sapere aggiornamenti. Ditemi voi invece, così riporto qua a Bologna, cosa succede nel vostro mercato di Piazza Tasso e dintorni. Cosa succede? Anche da noi ci sono stati dei grandi momenti di assembramento, anche perché sono state chiuse, c'è stato il divieto proprio anche solo di distanziamento in alcune zone della città, ed essendo il mercato in Piazza Tasso uno dei pochi luoghi invece dove non c'erano questi divieti, persone, ma anche solo per cercare un minimo di socialità, si soffermavano lì. E quindi non c'è stata proprio un'accusa magari diretta o una volontà di chiusura, però ci sono state, insomma, da questi momenti di ritrovo a innumerevoli visite, prima della nonna, poi della polizia municipale e poi varie, insomma. Dopodiché noi sopravviviamo e continuiamo a resistere. E qualche settimana fa abbiamo avuto una gradita visita del gruppo dei Fiati Sprecati, che è una banda fiorentina, sì, sì. Storica, che suonavano nelle piazze e non vedevano l'ora di riaffacciarsi in una piazza pubblica. E noi li abbiamo accolti, è stato un bel momento. Abbiamo anticipato il flash mob francese, che ora va tanto sul danzare ancora, no? Qualche settimana fa l'abbiamo anticipati, ecco, quindi è stato un momento bello, non è stato neanche particolarmente, a parte qualche uno che fotografava inorridito, ma poi non ha avuto grandi echi, il quartiere l'ha presa bene ed è stato un momento di socialità e di festa ragionevolmente organizzata e controllata, ma insomma alla fine era un momento di socialità bello. Dai, bene, anche noi abbiamo tante già richieste di gruppi, di gente che ha sempre suonato i nostri mercati, ma quando è che possiamo ricominciare a fare cose? Penso che sarà un'estate molto ricca di eventi appena sarà possibile farne, insomma. E siamo tutti ansiosi di ricominciare appunto a ballare, a fare, certo, musica nei nostri mercati, insomma. Oh, ti ringraziamo, bene, ti ringraziamo davvero tanto per gli aggiornamenti, in bocca al lupo e salutaci tutti e tutte. Vi ringrazio anch'io, salutate tutti i compagni, contadini e coproduttori. Dai, speriamo di vederci presto. A presto Michele. Ciao ragazzi, ciao. Volevo leggere così perché mi è venuto in mente questa citazione che ho trovato nella tesi sul quartiere di San Berillo, uno dei quartieri storici di Catania, che ha fatto una mia amica e che insomma racconta un po' la visione e l'essenza secondo me dei mercati. Una città è costituita dalle sue occasioni pubbliche di cibo. Queste costruiscono gli spazi e li delimitano, rendono una piazza uno slargo, un angolo o un vicolo, qualcosa che crea occasione di spazio circostante. Tanto più lo sono i mercati, che siano settimanali o giornalieri, all'aperto o nei souk o nei vicoli al coperto di tettoie di ferro e legno. Intorno ai mercati si costituiscono i quartieri, si dimensionano le altre attività, merci, liquidi, caffè, artisti per di giorno e banditori. I mercati formano l'aiuto di buona parte della città che conosciamo, anche quando essi li hanno rigettati o rifiutati come un segno di arretratezza. Così, per riflettere. Oleu, per contenta e ne con me la sgaffo i bore? No, pede mia, go di ascoltare Radio Contado i due mesa. Del bu. Se te pede mia ascoltare i due mesa, mercoledì, te pede ascoltare la sua posca dal venerdì o il sabato. Bella storia, è domenica? È domenica che è solo l'Atalanta. Sera andar, vai, vai pure, oh figlia ingrata, che qualcosa succederà. Vai, vai pure, figlia ingrata, che qualcosa succederà. Quando furono in mezzo al mare, il bastimento si sprofondò. Pescator che peschi pesci, la mia figlia vai tu a pescare. Pescator che peschi pesci, la mia figlia vai tu a pescare. Il mio sangue rosso e fino, i pesci del mare lo beveranno. La mia carne bianca e pura, la balena la mangerà. La La mia vita è talmente amara che con l'amaro la vita mi ci sciacqua la bocca la mattina, la uso come colluttorio. Ebbene, c'è qualcuno addirittura risposta... che ci risponde agli spottini creati ad hoc. Fai il contro spottino. Dottoria continua a silenziare il mio microfono. Guarda, me ne vado, eh. C'è del sessismo in questa radio? Io mi oppongo. Ti ho censurato, dama. Anche a me adesso mi dice. Ma tu, perché? Perché? Perché? Togliamolo da controllo. Oddio! La rivoluzione dobbiamo fare in questa radio, dopo la puntata 100. Come al solito allora, i ruoli andrebbero girati, se no il potere si cristallizza. Ci cambiamo di posto. Va bene, allora ragazzi, se la mettiamo così però chiusura e io chiudo Radio Contado, perché intanto siamo in 1, 2, 3, 4, 5, 6 in una stanza. Siamo al limite però. Ma è una stanza gigante. Vero, se si può. E poi abbiamo le radio vere, siamo una radio vera, abbiamo tutti le cabine di plexiglass. Che ci dividono le mascherine, io perché per paura metto anche la mascherina. Vabbè, comunque questa risposta avete sentito, no? La voce di un altro personaggio della nostra splendida radio, diciamo lo indovinerete mai? Chiamiamolo direttamente senza svelare il suo nome, sì. Se qualcuno vuole vincere un'insalatina fresca, visto che pare che gli ortaggi pugibonsi torneranno venerdì al mercato, scriva a radiocontado@silenzibere.net per subito, per prima prenotare. Che risponda. Per rispondere, se risponde correttamente, vincerà un'insalatina. Bella fresca, sì. Era un po' gelatina l'insalatina. Pronto? Non solo lei. Eccolo. Pronto? Ciao a tutti. Eccolo. Ascoltatrice. È lui, gli ascoltatori di Radio Contado. Il gringo al telefono. Eccolo, presente. Gringo, cosa ti è successo per avere sta vita così amara? Avete capito che ero io che mandavo il controspottino. Io non l'avevo capito, mi si svela così su due piedi, non me l'aspettavo, No, niente di particolare, le solite beghe quotidiane, automezzi che si rompono, problemi lavorativi, insomma, via dicendo. E immagino anche la tristezza di non essere qui con noi a festeggiare la centesima puntata, perché per chi si fosse messo all'ascolto solo adesso, siamo qui a Frittole Radio Contado a fare la centesima puntata, quindi oggi è una puntata un po' così di festa, di insomma di chiacchiere, di baldoria e di giro di interventi. È come un compleanno. È proprio un compleanno. A proposito di compleanni, vogliamo fare gli auguri un po' in ritardo in diretta a Reve? Ma no, dai. Auguri Reve! Anche perché è diventato maggiorenne, voglio dire. Esatto. No, maggiorenne. Traguardo. Posso finalmente posso comprare le sigarette. Vero, sì. No, comunque abbiamo davvero una torta di compleanno sia per me che per Radio Contado e dobbiamo ringraziare tantissimo la dama. Grazie. Beh, da che parte del mondo sei, gringo? Io sono vicino al castello, per risolvere uno dei miei problemi degli automezzi sto tornando a casa dopo averlo lasciato dal meccanico. Ah, ecco, allora. Capisco l'amaro. Sì, ma aspetta quando dovrai tornare a riprenderlo. Sciacquami la bocca bene prima. Comaro, dovrò aprire il portafoglio e dire addio a qualche banconota. Beh, quello sarebbe in meno, dai. Su via gringo, a me non è andata così male ieri dal meccanico, tu sei testimone, anche perché sei riuscito a farmi partire la macchina in retromarcia. Sono in buona compagnia. Eri invidioso, Sì, esatto. Ho cercato una scusa per andarci, così dovevo mettermi in pari. Ma poi come si fa a non andare da un meccanico che si chiama Dionisio? Cioè, Allora si va solo per piacere. Va bene. Gringo, ci manchi tanto. E quando torni? Ah, torno, sì, tornare torno, aspettate prima o poi. No, aspetta e spera. Ma veramente quest'anno è stato un po', non è ancora finito e quindi potrei ritornare come siamo peggiorare ad aprile, le siamo. Cose. È appena iniziato, Gringo, forse hai perso un po' la concezione. Ma è stato molto altalenante per la mia vita e una serie di impegni che si susseguivano. Vabbè, noi ti aspettiamo però. Vabbè, ti giuro che troveremo dei finanziamenti per farti tornare. Ho fatto qualche comparsata al cartello. Vero, ma vero. Ma niente di più. Quest'anno il mio contributo alla Radio Montato è stato un po' scattino. E quindi dovrò trovare il modo di recuperare. Va bene, ma qui è il compleanno e non siamo a fare le pagelle, per tua fortuna. Diciamo la verità, per le pagelle aspetteremo giugno. È che il Gringo è stato rinchiuso nelle segrete. Il libretto della Sense invece lo vogliamo domani. No, il Gringo è stato rinchiuso nelle segrete del castello, quindi o si va in onda dal castello o non c'è. Nulla. Ma ti libereremo presto. Aspetto qualcuno che venga a liberarmi. Cala la treccia, arriviamo. Ecco. Vai Raperonzolo. Un bacione. Beh, Gringo. Un abbraccio a tutta la redazione di Radio Contato. Ciao. Viva il Contato, viva il Wombat. Evviva. Ciao, ciao. Ciao a tutte. E a proposito di assenti, mandiamo un contributo che la nostra cara Grebana con la Eve ci ha mandato di qualche minuto, sempre sulla vita amara. Ci state? Vale. Il tema della festa? Sì. Signor Robert, qual è il suo piano per l'occupazione? Semplice, io e il mio partito diciamo, bisogna creare occupazione. Non importa quale, purché migliori le statistiche, i disoccupati ci lasciano in pace e noi ci riempiamo le tasse. Allora io ho un'idea, propongo di inventare un nuovo lavoro. Ah sì, quale? Un mestiere facile, senza investimenti, materia prima abbondante. E non totalmente gratuito. Possono farlo tantissimi, anche i disoccupati. Soprattutto non è richiesta alcuna qualifica, si può assumere in massa, si elimina la disoccupazione e si avranno statistiche favolose. Ma che cos'è? Mangiatori di merda. Mangiatori di merda? Sì. Mangiatori di merda? Sì. È vero, la materia prima è gratuita. E può farlo chiunque. È vero, i disoccupati ci sono già abituati, sì, ma il problema è... A cosa serve? A niente. E allora? A chi importa che serva qualcosa se migliora le statistiche? Come? A chi importa che serva qualcosa se migliora le statistiche? Sì, è vero. Una bella campagna per valorizzare l'immagine del mangiatore di merda. Io ho delle azioni di un'ottima agenzia. Loro mangiano la merda, in cambio gli si dà qualche briciola. Le briciole non costano care, sono i soldi delle loro imposte. E tutto continua come prima. È perfetto! Dico, con tutti gli aiuti sociali che ricevono non vorranno chiedere anche un lavoro che serve a qualcosa. L'arroganza ha un limite. Sì, l'altro giorno ad un meeting un tizio mi ha detto: se si demolissero gli edifici brutti e si ripulisse il pianeta, ci sarebbe lavoro per tutti per 500 anni. Se ne rende conto? Ma chi è questo pazzo? Che cos'è che non gli sta bene? Dove si andrà a finire così? Perché non cambiare tutta la società? Già che ci siamo. Sì, già che ci siamo. E fra l'altro, se vista qualcosa saremo i primi ad essere presi di mira. Non ne parliamo nemmeno. Per carità, no, non si cambia niente. Mangiatori di merda, è perfetto. Avanti disoccupati, al lavoro. Al lavoro. Quindi venite, nuovi speaker a Radio Contado. Tutti esatto, i mangiatori di merda noi li vogliamo. Siamo qui tre anni che... No, siamo qua perché l'occupazione, effettivamente in questi anni un po' di occupazione abbiamo creata. Siamo partiti in tre, io, Muro e Camicia, e adesso siamo quasi in 10, ma ne vogliamo ancora di più. Siamo quasi una startup. Poi la retribuzione quella diventerà, non so, se vogliamo indire una campagna, adotta un radioconduttore fossimo stati nella Silicon Valley a quest'ora. Fior di quattrini. Radio Comunque Contato, sì, hai... il programma più amato di Radio Wombat. Esatto, hai parlato dell'inizio, no? Un po' di questa avventura dove eravate praticamente in tre, quasi. In tre. Qualche altro satellite. Chi è che non era intero? in tre integri, più tanti ospiti. Più qualcun altro satellite. Poi la puntata zero c'ero. Qualcuno che c'era, qualcuno che poi si è intrufolato avendo vergogna di parlare, lo guardo dritto negli occhi e poi è diventato uno speaker esatto. Perfetto, vero dottor Io? Ehi. Comunque, vediamo adesso se riusciamo a raggiungere qualche altra presenza. Presenza assenza. Nella prima stagione anche io e il Ruvido facemmo una puntata registrata insieme al Rosso. Dove raccontammo un nostro spettacolo e la particolarità è che era uno spettacolo muto, quindi noi siamo stati i primi alla radio a mandare uno spettacolo teatrale muto alla radio, voglio dire. No, cioè, una partecipazione sola, ma voglio dire. Tanta roba, infatti poi vi abbiamo voluto in pianta stabile, vi abbiamo così ingaggiati subito. Ingaggiato, abbiamo fatto un'opera di proselitismo. E comunque abbiamo uno spezzone di un vostro spettacolo teatrale che avete mandato durante la puntata 27 di Radio Contado, per cui dopo ecco, la manderemo. Mandaci un po' di spezzone poi. Preparato, il reverendo ha passato una pezzo. Settimana a ascoltare tutte le puntate precedenti e ha estrapolato delle chicche un po' da per comunque tutto. Vi ho preparato una chicca anch'io E va bene, va allora bene, dai, va bene. Andiamo di corsa, mandiamo un pezzo, bravo, e piccolo, poi via con intermezzo musicale, poi continuiamo qui da Frittolo. E dunque al fine io non starò muto, principio improvvisando un'ottavina. A tutti allora dono il mio saluto, ai nuovi amici ed a quelli di prima. C'ho un sogno che tenevo nell'armadio, venire a improvvisare qui alla radio. Meglio che di calcio e dello stadio. E fa una veglia insieme a ballo e a canto. È un modo di star insieme tanto vario. Con gli amici di sempre, sempre accanto. È bello fare una veglia qui alla radio, ed è una cosa che mi garba tanto. Con le voci e con i loro suoni, viva la fattoria senza padroni. Che semino la vigna, vigna, vigna, vigna, in col ciripiripim, va il vino in vi, e va il vino in vigna. Di vigna va in vite, oh che bella vite, vite, vite, vite, in col ciripiripim, va il vino in vi, e va il vino in vite. Di vite va in graspi, oh che belli graspi, graspi, graspi, piccoli ciribiribim, va il vino in graspi, e va il vino in graspi. Di graspi va in chicchi, oh che belli chicchi, chicchi, chicchi, chicchi, piccoli ciribiribim, va il vino in chi, e va il vino in chicchi. Di chicchi va in panieri, oh che bei panieri, panieri, panierò, panieri, piccoli ciribiribim, va il vino in panieri, va il vino in panieri. I panieri va in bigoni, oh che bei bigoni, bigoni, bigonò, bigoni, col ciribiribim, va il vino in bigò, va il vino in bigoni. I bigoni va in tino, oh che bello tino, tino, tino, tini, col ciribiribim, va il vino in ti, e va il vino in tino. Di tino va in botte, oh che bella botte, botte, botto, botti, col ciribiribim, va il vino in bo, e va il vino in botte. Di botte va in fiaschi, oh che belli fiaschi, fiaschi, fiasco, fiaschi, in col ciribiribim, va il vino in fia, e va il vino in fiaschi. Di fiaschi va in bicchieri, oh che bei bicchieri, bicchieri, bicchierò, bicchieri, col ciribiribim, va il vino in bicchiere, va il vino in bicchieri. Di bicchieri va in pancia, oh che bella pancia, pancia, pancia, pancin, col ciribiribim, va il vino in pa, e va il vino in pancia. Di pancia va il cervello, e ora viene il bello, bello, bello, bellin, col ciribiribim, va il vino in be, e va il vino in bello. Di bello va in corpo, oh che bello corpo, corpo, corpo, corpi, col ciribiribim, va il vino in co, e va il vino in corpo. Di corpo va in piscio, oh che bello piscio, piscio, piscio, piscin, col ciribiribim, va il vino in pi, e va il vino in piscio. Di piscio va in terra, oh che bella terra, terra, terra, terrin, col ciribiribim, va il vino in terra. Il vino nasce e muore in terra. Anche Papa Francesco sostiene il mercato di Piazza Tasso, in particolare Giovanni e il suo ottimo vino naturale. Ah, senza vino non c'è festa. E eccoci qua tornati. Beh, queste sacrosante parole. Esatto, sacrosante. Avete sentito degli spezzoni che il reverendo ha estrapolato di alcune puntate che abbiamo fatto insieme all'associazione culturale La Leggera. Quanto ci manca La Leggera? Ci manca tanto. È stata una, diciamo, un po' una delle novità dell'anno scorso, quindi della seconda stagione, del secondo anno. E sono venuti due volte a fare un live, cioè a suonare dal vivo qui a Frittole. E poi, come vi ricorderete se ci seguite, l'anno scorso avevamo iniziato a svolgere le lezioni della scuola contadina che si stava tenendo a Mondeggi, che poi purtroppo a causa del Covid fu bruscamente interrotta, e decidemmo di continuarle qui in radio. Io ho memoria anche di uno stornello cantato dal dottor Io. Oddio, è vero. Quello te lo sei perso, Rebe. Mi è venuto in mente solo momento. Basta, io me ne vado. Lo faccio apposta, scusa. Tengo sempre la modesta muta. Continua il mutismo della modesta. Cambiate il microfono, datelo al dottor Io, così si ricorderà di accendere il suo microfono. Dunque, avete sentito, la prima era la polca di Zaccheo, poi c'è stata l'ottava rima di Filippo, bellissima ottava rima improvvisata qui a Frittole, e poi il canto del il vino del contadino, ecco, cantato il vino del contadino, che è la spiegazione scientifica dell'economia circolare. Esatto, un canto didattico. E infatti vorremmo rassicurare anche tutti i nostri radioascoltatori e usufruitori del mercato in Piazza Tasso, che fortunatamente pare essere stata revocata il decreto legge, l'ordinanza che vietava di vendere il vino dopo le 4 del pomeriggio. Quindi, ma due meravigliose poliziotte della polizia municipale il venerdì prima di Pasqua ci hanno detto: no, ma potete venderlo tranquillamente il vino, è stato revocato. Quindi tornate al mercato, tanto si sa che venite solo per bere. Certo, vietare il vino a Pasqua era Lo dice anche Papa Francesco. E comunque salutiamo tanto Marco, Filippo, Pietro, Cecilia, insomma, e tutta la banda della Leggera, e speriamo davvero di ricominciare presto. Con Filippo. Eccoci. Che con Filippo, già ormai 3 anni fa, credo, ci siamo detti: prima o poi faremo una sfida ad ottavine, perché si sa che le ottavine erano una sfida, e poi non l'abbiamo mai fatto. Avremo occasione. Speriamo di essere lì con un, più bravo con lui, un microfono, con un qualcosa a registrare tutto. Un registratore, ecco. E nel frattempo stiamo provando a collegarci con un eroe. Eroe, sei con noi? Eroina. L'eroina di Radio Contato. Tagliatemi subito i bassi, le basse, sono sicuro di averci le bassissime. Oh, e finalmente una voce che non si ascolta da non so quanto tempo a questi microfoni. No, veramente. Anni. Non mi ricordo più, ma chi siete voi? Dove chiamate? No. L'importante è che tu ti ricordi chi tu sei. Cara entità all'ascolto, siamo al telefono con uno dei soci fondatori di questa radio. Toglietemi dalla lista, non voglio più ricevere chiamate. Insalata numero 2 al mercato in Piazza Tasso di venerdì, per chi in questo momento manda subito una mail a Radio Contado che c'è in Siberia.net dicendo di che è questa meravigliosa voce dei fondatori. E tanto il dottor Lisa a 2 minuti lo dice. Carissimo. Stavo preparando la sigla, ma non ho fatto in tempo. Volevo preparare una sigla dei 100. Beh, vabbè, comunque sei ancora nel CDA di Radio Contado, per cui farei ancora. È ancora voce in capitolo. Sei tipo un senatore a vita. Io nella mia azione sovversiva, tutte le volte si incontra il CDA di Radio Contado e non c'è il nostro fondatore qui presente ai microfoni. Esatto. Io prima mi consulto con lui, perché non vorrei mai mancare di rispetto. E poi sacrifichi un capretto. Due. No, la dama è l'unica fondatrice ancora ivi presente, tra l'altro. È vero, sì, è vero. Resiste. Guarda la Modesta? Sì. Hai indovinato? Ciao. Bravo. Comunque, vi devo dire che io invece sono qui con il mio erede, è il Camisita. Faccelo sentire un po' ai microfoni. L'erede al trono. Adesso sta dormendo, perché dopo una session di Audacity, che gli sto insegnando a usare Audacity. alla veneranda età di tre settimane? Sì, ben 3 settimane, sì. Però ho detto, non è che c'è 3 ore, cioè c'è già 3 settimane, quindi la differenza tra onde quadre. Dovrebbe già capirla. Si sa che da piccoli si impara prima, quindi è giusto. Sì, infatti non sembrava comprendere bene, però piano piano, dai, tra 3 mesi dovrebbe essere già pronto a editare un file. Secondo me tra 3 mesi ti fa vedere una funzione di Audacity che te non sapevi che ci fosse. probabile. Stavo per dire io il nome, guarda. Allora, invece, proprio perché te sei costretto a fare le tue funzioni giustamente, dimmi, Grigio. Allora, guarda, ti dedico una poesia. Va bene? Che tenerezza. Allora, a questa poesia io l'ho scritta a mio figlio, e quindi te la dedico a te in quanto hai il tuo erede che dorme ora. Che bello, grazie. Vai. Com'è che ogni tuo piccolo passo scavalca montagne? Da quale mondo trae la forza di sbriciolare pietre ogni tua volontà? Quando ascolto i tuoi sogni, il tuo fantasticare, non capendo più chi dei due sia il padre, io so che né il tempo né lo spazio fanno di me un uomo, poiché sono io la bocca aperta all'ascolto quando mi parli del mondo. No, non piangere. Mamma mia. Prego, mamma non mia. Ti commuovere. No, bellissimo. Mi ritrovo poi nel punto in cui dice non so chi dei due sia il padre, mi sono ritrovato in questa situazione. No, è bellissimo, in effetti passa bene la sensazione. Io sto venerando come se fosse un mio avo, praticamente, per non parlare poi di Carmine, che che praticamente è la sua latteria portatile. Anche un abbraccio e un bacio immenso a Carmine. Ma quindi a breve in Piazza Tasso avremo del latte materno. Avremo, esatto, sto preparando proprio la nuova linea Bimbo, la latte naturale, l'etichetta, ovviamente ci sta pensando Simo, degli Incadiscia, il momento di sponsor, e ci sarà a breve, sì sì, tutti i ghiacciolini quest'estate al latte materno. Vabbè, ma quindi... E poi latte di socera anche. E di socera sei circondato, ci dicono delle esatto. voci. È vero, è vero. Ce ne abbiamo a yoga. No, no, torneremo presto, dai. Però ancora recuperiamo e vi ascoltiamo. Forse Radio Contado sempre. No, noi vi aspettiamo tutti in formazione 3 a questo punto, invece che 2. E ora gli voglio insegnare a montare il gazebo, tra l'altro, grazie a me. No, perché poi a 6 mesi cioè, si dovrà cercarsi una casa, cioè farsi una vita. Prima della casa, a 6 mesi vogliamo il primo spottino per Radio Contado. Questo mi sembra esatto, fondamentale. Poi a 8 mesi fai il primo periodo a Mondeggi, esatto. Si prova, e poi va a occupare in qua e là. Precoce. Insomma, una bella festa lì, eh? Sì. Qui... No, non ci lamentiamo, non ci lamentiamo. Tra il serio e il faceto. E chiediamo bene ai nostri radioascoltatori se non comprendono tutto quello che oggi noi diremo. Ma... Solo inside jokes. Gli suggeriamo di riascoltare tutte le puntate dalla 1 alla 99. Assolutamente. Capiranno. Dalla 0 alla 99. Dalla 0, è vero, è vero. Cioè... Sì, e tra l'altro... Tra l'altro c'è anche la difficoltà di andare anche sul vecchio blog, perché non è ancora stato importato tutto alla perfezione, tante cose sono ancora là, ma ha un sapore ancora più vintage. Vabbè, ma alle nostre entità l'ascolto non importa l'importo, perché rimangono costanti sulla decina abbondante, quindi grazie, un saluto. Sì, sì, esatto. Ma c'è una cosa che volevo chiedere, perché mi ricordo che c'erano stati dei laccheggi sul numero delle puntate, perché cominciando dalla puntata 0 poi non tornava più, quindi mi chiedo, ma è davvero la 100ª o è la 101ª perché è stata considerata la puntata 0? Allora, ma questo lo chiediamo ai nostri radioascoltatori esperti, scriveteci a radiocontado@insiberia.net e diteci secondo voi la 100 nerd, o la 101 qualche nerd o la 99. Di Radio Contado che di quelli sa sanno tutto e sanno più. Diciamo che di a livello quanto... editoriale siamo alla numero 100 come qualsiasi giornale, però poi la numero 0 è diventata introvabile, no? Cioè se la si vende a pesce. Sì, sì, è un'edizione limitata. La domanda è quante puntate riuscite a trovare o quante ne abbiamo fatte? Già, tra l'altro. Quante da Frittole, quante dal Castello e quante da altre. Poi ci sono, e poi ci sono anche le dirette speciali. Non l'ha fatta la statistica. Le dirette speciali. Non l'ho aggiornata. No, ma la statistica si farà a fine anno, dai, alla fine della terza stagione. A fine stagione. Anche perché c'è da considerare ora l'impennata degli ascolti dopo l'uscita su Radio Blackout di Radio Wombat. Cioè, da ora in poi l'impennata va considerata. Sì, sì, sì, sì. No, ma tireremo le somme nel quarto trimestre, come fanno le persone serie. Brave tutte. Insomma, tanto nessuno ha risposto alla nostra domanda su chi fosse, io lo dico, lui è il Camicia. Don Camicia. Don Camicia. Camicia. Ci manchi. Va bene, Don Camicia love. Il fu Don Camicia. Tra l'altro il grande conduttore dell'Agriquiz. L'Agriquiz. Che storico programma della prima serie. Che purtroppo non sono riuscito ad estrapolare, però potrei mandarti uno spottino dell'Agriquiz, tipo la sigla. Dai, manda. Che bello. Brividi. È il momento più bello della trasmissione. Manda. Cioè della rubrica di... Faccelo sentire. Ciao, Agriquiz e precisamos di un sparatore umano. Antonio Caminhos. Oh, Esatto, bentornati all'AgriQuiz. E poi sì, la musichetta. Sì, aveva questa peculiarità di avere una sigla che non si capiva che era una sigla, quindi sconvolgeva sempre tutta la regia. Bei tempi, bei tempi. Sì, ma torneranno, cioè non torneranno per fortuna, perché ora la redazione Radio Contado è potentissima, è enorme, è favolosa, quindi è bello così, però io sicuramente tornerò, quindi ti aspettiamo, ti aspettiamo, l'hai detto. Sì, sì, no, e qui è già il secondo che lo dice. È tutto registrato, eh? Abbiamo le prove. Il mulo? Non mi avete messo in contatto con lui? Poteva essere una bella carrambata essere in contatto telefonico con lui. Il mulo ha promesso che prima o poi passerà da qua in questa puntata, ma non si io sa. Io ho perso le speranze col mulo. No, lo chiameremo anche lui, secondo me, perché non passerà fisicamente. La apriamo. Vabbè, grazie Camicia. No, non importa. Sotto questa battuta incompresa del grigio ti salutiamo. Magari ti richiamiamo quando c'è il mulo. Va bene, va bene. A presto. Un abbraccio a tutte. Grazie in Camicia, grande donna, grande. Di aver animato tutto. Ciao Carmine. Ciao. No, quanta nostalgia, ragazzi. Queste ma voci. Ci metti anche la sigla di Minima Rurale, già che ci sei. Or subito. Bellissima. Così, con questo vena nostalgico. Io l'ho rimandata un paio di volte pensando che fosse la sigla di Contado, invece perché c'è sigla e si confonde, sigla, si confonde. Era fatta apposta per confondersi. Bellissima. Minima Ruralia, la storia, i personaggi, i contesti. La storia, i personaggi, i contesti. Oh, con sembra questa voce sconosciuta, davvero. Rai Storia. Ma chi parlava in questa sigla? Molto sexy questa voce. Infatti ero io. Ah, è vero, quindi c'eri già dall'inizio. Grigio, no, così Educational Channel. Avevi dato il tuo contributo sensuale. E mandiamo pure a questo punto la sigletta di delle voci della sigla delle voci della comunità, giusto? Esatto. Veramente epica, incredibile. grandi sigle, ce l'avamo applicati. Ci stiamo facendo la radio per noi. Esatto, sì. Noi speriamo che dall'altra parte qualcuno si stia divertendo quanto il ci divertiamo noi oggi, ma l'abbiamo detto, è il salottino di frittole che oggi va avanti. Infatti ma ci sa allora, il vino, ci sa tutto, la torta. Si potrebbe anche mandare una di quelle letture che ho mandato. Ora, la prossima stagione, per le audioletture faccio la sigla. Che ci piace. La puntata 200. La 200, almeno si manda la sigla. Allora, io manderei giusto un pezzettino e poi mandiamo subito la lettura. Sì. Oh yeah. E poi una chiamata alla Cineprina che si era resa disponibile, così. E a Dino. Un saluto e a Dino. Per salutarlo. Evviva, evviva. Bella. Yeah, yeah. Radio Contado is the bomb. I mean, absolutely the bomb. It's super cool. We in Los Angeles love it to death. We listen all the time. In the club with my homies, trying to get a little VI. Keep it down on the low key. La papa la laica, concerto d'amore. Le notti di ottobre, infatti io ero da solo. Solo la morte verace nelle notti di ottobre. Oh, novembre, per favore no, cercando parcheggio, cioè sto girando un po' a vuoto da non so quanto. Sono cartelle di strade chiuse, divieti, di tutto. Ma che cazzo c'è in San Frediano? Camiche, là dal vivo. Junius Meltby era un giovanotto di buona famiglia che aveva ricevuto un'ottima educazione. Quando suo padre fece fallimento e morì, Junius prese un impiego nelle spire del quale si dibatté debolmente per 10 anni. Ogni giorno dopo il lavoro d'ufficio, egli si ritirava nella sua camera mobiliata e passava la sera a leggere e leggere. Amava sopra ogni altra opera letteraria i saggi dello Stevenson. Rilesse il viaggio con un asino parecchie volte nella sua vita. Compiuti i 35 anni, una sera Junius fu colto da uno svenimento sulle scale della pensione. Quando rinvenne, notò per la prima volta che respirava con molta fatica. Il dottore che lo visitò non fu tuttavia pessimista e gli disse: «Le vostre condizioni non sono certo disperate, però dovreste andar via da San Francisco. Se rimanete qui a mangiar nebbia, avrete al massimo un anno di vita. Dovrete stabilirvi in un luogo dove il clima sia più asciutto». Junius si rallegrò in cuor suo di quanto gli disse il medico. Così avrebbe avuto la scusa di liberarsi dai legami dell'impiego. Aveva $500 che si era dimenticato di spendere. Con questa somma, pensò, potrò rimettermi in salute e poi ricominciare da capo, oppure morire e farla finita. Un collega d'ufficio gli vantò il clima dei pascoli del cielo e Junius, sedotto dal nome, si recò immediatamente nella valle. Aveva sentito in quel nome un significato personale per lui e ne era felice, poiché nulla al mondo, in 10 anni, aveva avuto un significato personale per lui. Si trattava, quando intrapresi la mia lunga passeggiata in quel deserto, di lande nude e monotone, tra i 1200 e i 1300 metri di altitudine. L'unica vegetazione che vi cresceva era la lavanda selvatica. Attraversavo la regione per la sua massima larghezza e dopo 3 giorni di marcia mi trovavo in mezzo a una desolazione senza pari. Mi accampai di fianco allo scheletro di un villaggio abbandonato. Non avevo più acqua dal giorno prima e avevo necessità di trovarne. Quell'agglomerato di case, benché in rovina, simile a un vecchio alveare, mi fece pensare che dovevano esserci stati una volta una fonte o un pozzo. C'era difatti una fonte, ma secca. Le 5 o 6 case, senza tetto, corrose dal vento e dalla pioggia, e la piccola cappella, col campanile crollato, erano disposte come le case e le cappelle dei villaggi abitati. Ma la vita era scomparsa. Era una bella giornata di giugno, molto assolata, ma su quelle terre senza riparo e alte nel cielo, il vento soffiava con brutalità insopportabile. I suoi ruggiti nelle carcasse delle case erano quelli d'una belva molestata durante il pasto. Dovetti riprendere la marcia. 5 ore più tardi non avevo ancora trovato acqua e nulla mi dava speranza di trovarne. Dappertutto la stessa aridità, le stesse erbacce legnose. Mi parve di scorgere in lontananza una piccola sagoma nera. Il vecchio Barbalunga fece una pausa nel suo racconto, si leccò le dita unte e le asciugò contro i fianchi nudi dove il pezzo unico di lacera pelle d'orso non giungeva a coprirlo. Accoccolati intorno a lui c'erano 3 giovanotti, i suoi nipoti, cacciatore di cervi, testa gialla e pauroso del buio. In apparenza erano tutti uguali, parzialmente coperti da pelli di animali selvatici, magri e di corporatura minuta, con i fianchi stretti e le gambe ricurve. Ma nello stesso tempo avevano il torace grande, le braccia grosse e le mani enormi. Sul petto e sulle spalle, nonché sulla parte esterna delle braccia e delle gambe, erano molto pelosi. Le loro teste erano arruffate di capelli mai tagliati, di cui lunghe ciocche spesso ricadevano loro davanti agli occhi, che erano piccoli, neri e lucenti, come quelli degli uccelli. Avevano poco spazio fra gli occhi e molto fra gli zigomi, mentre la mascella inferiore era pronunciata e massiccia. Era una notte di stelle chiare e sotto di loro si estendeva a perdita d'occhio una serie infinita di colline boscose. In lontananza il cielo rosseggiava dei bagliori di un vulcano, mentre alle loro spalle si apriva l'oscura bocca di una grotta. L'ondeggiare pacifico dei vostri campi s'aggiunge ai vostri pacifici cuori, e la lentezza di quel che confezionate con le sementi, la terra e il tempo è la lentezza stessa dell'amicizia con la vita, non certo la febbrile concitazione delle battaglie. Voi siete la pace. Ma io non vi amo da lunghi anni senza conoscervi. Se vivo con voi senza andarmene è perché mi trovo a mio agio tra i vostri pregi e difetti, come voi vi trovate a vostro agio coi miei. I vostri desideri più segreti li conosco, i progetti più profondamente sepolti nel vostro intimo li conosco. Ne avete di talmente sotterrati che ora sembrate non progettare nulla, eppure forse state per agire d'improvviso tutti assieme. Tutta questa grande rivolta contadina che vi grava sul cuore quando vi curvate sui campi, io la conosco, la approvo, la trovo giusta. Ma vorrei che foste i primi a compiere una rivoluzione da uomini. Vorrei che dopo di essa la parola contadino significhi onore, che in seguito non si possa più perdere la fiducia nell'uomo grazie a voi, che per la prima volta si vedano impegnati contro tutti gli attuali regimi. Era molto strano. Ogni volta che un uomo voleva andare avanti, quelli che stavano fermi dicevano che voleva tornare indietro e che dovevano ucciderlo. E la povera gente aiutava a lapidarlo. Ed era sciocca. Eravamo tutti degli sciocchi, a parte quelli che ingrassavano senza lavorare. Gli sciocchi erano chiamati saggi e i saggi venivano lapidati. Gli uomini che lavoravano non avevano abbastanza da mangiare e gli uomini che non lavoravano mangiavano troppo. Vedete, egli spiegò, io non sapevo di fare del male al mio ragazzo, non l'avevo mai sospettato. Egli sarebbe cresciuto nella povertà, capite? Io non sapevo che la gente andava dicendo di noi. Perché non rimanete alla fattoria? Una fattoria che può rendere molto, credo, ma io non sono capace di farla rendere. Non so nulla di agricoltura. Ci penserà Jacob alla fattoria, nei limiti che gli consente la sua pigrizia. In seguito cercherò di rivenderla, così Robby potrà avere qualcosa di quello che non ha mai avuto. In verità, niente e nessuno ha il diritto di disporre della vita di un uomo. Dare la propria vita allo Stato è sacrificare il naturale all'artificiale. Ecco perché è sempre necessario costringervi. Uno Stato, se è maestro di menzogna, potrà forse ottenere una mobilitazione generale senza gendarmi. Ma io lo sfido a continuare una guerra senza gendarmi, perché più la guerra dura, più le leggi naturali dell'uomo insorgono contro le leggi artificiali dello Stato. La forza dello Stato è il denaro. Il denaro dà allo Stato la forza dei diritti sulla vostra vita. Ma siete voi a dare forza al denaro, accettando di servirvene. Ora Voi siete umanamente liberi di non servirvene. Il vostro lavoro produce tutto quel che è direttamente necessario alla vita. Potete mangiare senza denaro, avere un riparo senza denaro, garantirvi ogni avvenire senza denaro, perpetuare la civiltà umana senza denaro. Vi basta dunque un atto di volontà per diventare padroni dello Stato. Quel che il sociale chiama povertà per voi è misura. Attualmente siete gli ultimi a poter vivere nobilmente con misura, e ciò vi dà una tale potenza che se accettate di vivere nella misura dell'uomo, tutto intorno a voi acquisirà la misura dell'uomo. Lo Stato diventerà quel che deve essere, il nostro servitore, non il nostro padrone. Avrete liberato il mondo senza battaglie. Avrete cambiato il senso dell'umanità intera, le avrete dato più libertà, più gioia, più verità di quanto le abbiano mai potuto dare le rivoluzioni di tutti i tempi. Si incontrano per le strade uomini e donne ben nutriti, ragazzi e ragazze, che sanno ridere e hanno ripreso il gusto per le feste campestri. Se si conta la vecchia popolazione, irriconoscibile da quando vive nell'armonia, e i nuovi venuti, più di 10.000 persone devono la loro felicità a Elzéar Bouffier. Quando penso che un uomo solo, ridotto alle proprie semplici risorse fisiche e morali, è bastato a far uscire dal deserto quel paese, trovo che malgrado tutto la condizione umana sia ammirevole. Ma se metto in conto quanto ci è voluto di costanza, nella grandezza d'animo e d'accanimento, nella generosità per ottenere questo risultato, l'anima mi si riempie un enorme rispetto per quel vecchio contadino che ha saputo portare a buon fine un'opera degna di Dio. Elzéar Bouffier è morto serenamente nel 1947 all'ospizio di Banon. Give me your dirty love, like you might surrender to some dragon in your dreams. Give me your dirty love, like a pink donation to the dragon in your dreams. I don't need your sweet devotion, and I don't want your cheap emotion. Whip me up some dragon lotion for your dirty love. Dirty love. Give me your dirty love, like some tacky little pamphlet in your daddy's bottom drawer. Give me your dirty love, I don't believe you never seen his book before. I don't need no consolation, I don't want your reservation. I only got one destination, and that's your dirty love. Your dirty love, just like your mama make her fuzzy poodle do. Give me your dirty love, the way your mama make that nasty poodle chew. I I'll ignore your cheap aroma and your little Bo Peep diploma. I'll just put you in a coma with some dirty love. Some dirty love. That dirty love. That dirty love. The poodle bites. Come on, Frenchie. The poodle chooses. Snap. The poodle bites. Come on, Frenchie. The poodle chooses. Snap. The poodle bites. Come on, Frenchie. The poodle chooses. Snap. The poodle bites. Come on, Frenchie. The poodle chooses. Not a speck of cereal. The poodle bites. Come on, Frenchie. The poodle chooses. Nothing but the best for my dog. The poodle bites. Come on, Frenchie. Eccoci, eccoci. Oh, finisce un po' triste, come diceva il dottor Rio, ma questo è un racconto prendendo tutti gli spezzoni dei racconti che abbiamo mandato in onda in questa stagione. Oh, che operona! Il racconto dei tutti, racconti. Tutti, tutti? Tutti, sì. Wow. Addirittura c'è cioè, il racconto che abbiamo mandato la fine della stagione precedente, perché l'uomo che piantava gli alberi viene da giugno dell'anno scorso, più o meno come periodo. Ebbene, bene. Le letture a me sono piaciute molto, da quando avete iniziato questo ciclo me le godo, per cui continuate, per favore. Certo, e quindi dalla vediamo... prossima puntata ci sarà una registrazione del Ruvido, fine a se stessa, nel senso che non è un racconto che dura più puntate, ma è un bel pezzo. Potremmo credere anche ai nostri radioascoltatori di iscriverci su radiocontado@insiberia.net per dirci qual è il racconto preferito, o se hanno apprezzato questa serie di racconti, o se hanno suggerimenti per racconti futuri. Certo, potremmo chiederglielo, glielo chiediamo sempre di iscriverci. Infatti non ci scrivono mai. Ma non arriveremo mai alla 1100. Mi sembra che una volta avevamo lanciato anche il concorso Una voce per l'audiolibro, chi si proponeva era bene accetto, ma non abbiamo ricevuto... Candidature degli ascoltatori timidi. Va bene, comunque ci comunica. Ah, scusami. No, no, vai, ci comunicano. No, dicevo, ci comunicano che il sito di Wombat, radiowombat.net, è un momentaneamente fuori inagibile. Recatevi sul vecchio sito, c'è cioè comunque il link dello streaming. Esatto, oppure... voi che siete già all'ascolto, rimanete all'ascolto, ma i vostri amiche, amici, familiari che volessero ascoltarci adesso, ditele di andare su Streampunk s.streampunk.cc, ecco, dove troverete altre bellissime bellissime radio in streaming da tutta Italia e non solo. Bene, e in fondo c'è Wombat e diamo il via ad altre telefonate. Vai, saluti e coinvolgimenti. Ha grandi pacche sulle spalle. Ah, pensavo che avevamo lanciato un concorso, diamo via le telefonate. Pronto? Eccolo! Ciao! Dino, ci senti? Sì, più o meno. Oh, siamo alla puntata 100, come più o meno? Noi vogliamo sentirti dire che ci senti forte e chiaro in questa puntata memorabile. Mi sento forte e chiaro, no, non ci speravo più nella chiamata. Vabbè. Siamo un po' in ritardo. Solo 10 minuti. Va bene, sì. Non volevo far polemica. L'hai fatta. Quindi avevi già fatto la sigla di Ok, prezzi giusto oppure no? No, quella è la sigla eventi. Ora, alla fine, tu non sei un evento, sei una rubrica. Ho capito. Senti, ma sei ancora in bicicletta? Sei arrivato poi? Io ti ho visto partire ieri. Sì, no, sono arrivato sano e salvo. Sì. Ho fatto anche trasporto merci, formaggio, andava tutto bene. Non mi sa nemmeno capottare la ricotta, che è fondamentale. Quello fondamentale. Quindi sì. Quindi possiamo andare a fare la spesa in bicicletta. Ma dove sei andato a fare la spesa? Sono andato al mercato dell'Isolotto. Ehi là! Che consiglio a tutti, come sempre. Oltre a Piazza Tazzo, anche l'Isolotto. Il grande mercato dell'Isolotto. Esatto. Dino, come ci si sente a far parte di Radio Contado, seppur telefonicamente? È sempre un grande onore, insomma, anche se lo faccio a distanza, ma va bene, visto che in questo periodo va di moda, anzi solidarizzo con gli studenti che ormai fanno tutto a distanza, che farò anche io il contadino a distanza, faccio la CAT, contadino a distanza. Mandi i droni a zappare, insomma. Come? Mandi i droni a zappare, dico. Esatto, no. sì, in qualche modo bisogna evolversi anche da quel punto di vista. No, soprattutto di evoluzione, ora parlavo tra l'altro anche con un amico, qui visto che, ora non so, io purtroppo non ho potuto sentire, ma visto ora che continuamente negli ultimi anni ci sono queste gelate tardive che praticamente danneggiano veramente tutti i raccolti, specialmente vini, frutta e roba varia, che forse bisognerà ingegnarsi, non lo so, forse bisognerà cambiare tipo di coltivazione, non lo so, bisogna fare un tavolo di discussione, bisogna adeguarsi al clima, ai cambiamenti climatici, perché qui mi sa che... O mettere le stufe nel campo. Il problema, problema, Dino, è che qui sono più che cambiamenti climatici, sono un si sa cosa sono, perché che mette uno? Non mette nemmeno banani, perché... nel senso, un giorno l'estate, il giorno dopo il piano inverno, non so quale frutto possa resistere a no, alla fine le piante si adegueranno, ma noi il tempo che poi si adegua alle piante, noi siamo forse già estinti, non lo so. Sì, quello quindi, sì, è probabile. Quindi non lo so nemmeno io, ma però bisognerebbe trovare un qualche modo per sopravvivere. Vabbè, sennò ma visto la maggior parte dei contadini ha l'impianto idrico nel campo, non si può fare l'impianto di riscaldamento. No, in modo rudimentale, diciamo, già lo fanno. Ora, a parte che circolano video, ma quello mi ricordo comunque che sono sempre state fatte le cose quando c'erano, diciamo, quando c'era il sentore di gelate notturne. I contadini accendevano questi falò per scaldare un po', per fare un po' da cappa praticamente, per vedere di salvare qualcosa. Però... c'è qualcuno che lo fa ancora, Il Camicia mi ha raccontato gli ottomani, i suoi amici nella vigna l'hanno fatto. Sì, no, si fa ancora quello, però purtroppo ora sta diventando da un evento così sporadico sta diventando una cosa normale, perché anche oggi, ora particolarmente dove c'è il campo che è un po' più freddo normalmente, insomma, però anche stamattina, insomma, tutto sto caldo, anzi in qualche secchio trovo anche qualche ghiaccettino proprio leggero, però insomma mi ricordo che negli manuali di agraria degli anni 70 era raccomandato dare fuoco ai copertoni lungo le vigne, perché così che il fumo denso dei copertoni rimaneva basso e riscaldava e sano. Bene. Sì, guardati, anche io porto questa testimonianza che non solo in quelli degli anni 80, o comunque all'agraria probabilmente ci sono ancora i libri degli anni 80, perché io ci ho studiato qualche anno fa e l'ho trovato scritto ancora come metodo tra i vari metodi di un buon riuso dei copertoni. Sì, sì, c'era la combustione in campo, l'accensione di falò, fra quali c'era anche il copertone perché c'ha un alto potere calorifero simbolico. Si può fare soluzione radicale, si dà fuoco ogni cosa, noi ci si dà il pensiero. Quello è un film, mi ricordo che... si dà fuoco ogni cosa, è un film. In un film dove fanno vedere che per salvare le viti accendano questi fuochi lungo i filari, a un certo punto gli parte un fuoco e gli brucia tutta la vigna. Non mi ricordo che film era, ma mi ricordo il sapore del mosto selvatico. I rischi e i pericoli del vignaiolo. È una soluzione radicale. Il sapore del mosto cotto. Quindi insomma, ora è nulla, ormai il fuoco non ho fatto e pace. Niente, quest'anno senza frutta, speriamo insomma che cosa si sia salvato, però la vedo dura, insomma, visto. Quindi, bisognerà tornare a fare ancora prima dell'agricoltura, che erano cacciatori raccoglitori, bisognerà tornare a quello. Sì. Cioè, non e per quello no, no le piante spontanee, per quello noi abbiamo la nostra amica Gineprina, che dopo chiameremo, che è una fonte di sapere. Quindi erbe selvagge e basta. Quindi bisogna ok, beh. Quindi, quindi allora da domani mi ritiro in una grotta con la lava e mi boicottiamo i contadini, boicottiamo quindi... i contadini in un anno futuro e sosteniamo i raccoglitori spontanei. È questo che ci stai suggerendo, dottor Io? Oppure buchiamo il frigo e buchiamo l'ozono, dai. Per fare più caldo. Amaro la vita, abbiamo proprio iniziato giusto. Ma senti, nel campo Dino hai avuto problemi? Hai aspettato? Cosa hai fatto? No, sai, per le cose aspettare non aspetta. Ora tanto, siccome nelle mie zone c'è sempre l'usanza di mettere la roba dopo la Madonna dei Fiori, che sarebbe, che era la festa della parrocchia che viene fatta e la domenica dopo Pasqua, infatti i contadini della zona dicono mai mettere roba prima della Madonna dei Fiori perché c'è sempre il rischio che le gelate, infatti effettivamente le stavo così. Quindi per il trapianto in campo non ho fatto una, però roba che c'era appunto, ripeto, vigna, frutta, sta roba qui, e ci si fa nulla. E per dire un po' di danni hanno avuto un po' di baccelli, però quelli più o meno quelli un po' li riesce a coprire, anche se però le piante sono salvate, però fiori tanti l'ho visto che sono stati, insomma, sono l'hanno accusato. Sì, vabbè, un po' come da noi, via. Sì. Insomma, chiederemo a Papa Francesco di fare il calendario agricolo. Quindi nulla. E questo è poi, vabbè, in qualche modo come sempre si fa, ora insomma si comincia a trapiantare le piantine per l'orto estivo e speriamo insomma che non ci siano altri danni, ecco via. Quindi intanto nulla, allora mi comincerò a fare pratica con arco e freccia, almeno. Visto che abbondano cinghiale e caprioli, come vogliono gli animalisti, però meno verdura e più selvaggina. Da me sono spariti anche quelli. Sì. No, quelli l'ho visti in forma, il ghiaccio non hanno sentito tanto, visto scorazzavano anche stamani. Bene, forse l'ha attemperato, non so, però insomma, l'ho visti ringalluzziti. Poi dove non arriva il ghiaccio arriva loro. Esatto, quindi insomma. Però via, bisognerà trovare qualcosa, un barlume di speranza, via. E... Daccelo a te un barlume di speranza. Senti, Dino, ti voglio chiedere un consulto. Ho sentito, mi è arrivata voce, che, nella mia ignoranza, che i cinghiali odiano l'odore della cenere. Ma è vero? Che tu ne sappia questo, te. Questo non so, io non sono esperto, ancora... Ho tentato un po' di farmeli amici, ma non sono riuscito ancora a capire bene la lingua, loro abitudini, le loro... No. Ma ora vedo sono più tranquillo, cioè ora sono anche più... ho preso più confidenza, insomma vengano lì, cioè ci sei lì in campo, te a lavorare, non è che scappano. No, fanno il loro comodo e poi vanno via, insomma. Ma mangiano di fianco a te, invitali alla tua tavola. Sì, ogni tanto cerco di spaventarli, ma mi guardano, ma mi dicono che tu vuoi, insomma. Ormai, però ancora non sono riuscito a capire bene i loro gusti, insomma. Perché ogni tanto appunto scavano da una parte, poi da quell'altra, insomma, quindi... Anche loro variano, forse anche loro sono un po' in confusione con tutti questi cambiamenti. No, ma quindi... perché a tutti piace variare, è una cosa dell'animale. Esatto. A parte la pecora, poi tendenzialmente l'animale un po' mangia di uno, un po' mangia di un altro, poi gli viene a noia, cambia. Quello sì, è naturale. Sì. Quello un, No, c'è cioè solo che sono molto abitudinari e quando imparano una viottola fanno quello. Cioè, quello è proprio veramente... Dice che lo facciamo anche noi, si amano a 1, a 12, a 15, quando ci si abitua a fare quelle si fanno sempre quelle poi. Così, via. Allora appunto bisogna anche noi, visto che loro sono ora in maggioranza, forse bisognerà adeguarsi, cioè bisogna studiarli un pochino e e adeguarsi a, cioè, capire come fanno loro, visto che sono la specie ora che si sta espandendo, forse per sopravvivere anche noi bisogna vivere alla cignala, andare a tartufi, insomma. Esatto, i cignali che colonizzeranno il mondo. Esatto, no, bisognerà cominciare a mangiare l'ombrico, non so, bisognerà fare queste cose lì. Bene, con questa botta di ottimismo. amaro la vita. Grazie Dino. No, via, puntata numero 100, però si può concludere. No, via, bisogna darsi da fare, basta, via, dai. Ormai è andata, via, mettiamo tutti zucchine, pomodori, non ci fosse un domani e... E via, si fa grandi raccolti quest'estate, via. Ottimo, ottimo. Evviva, evviva l'estate. Un buon saluto. Proposito. Ciao. Grazie Dino. Grazie Dino, a presto. Vai, ciao. Bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom for dang dang dang for ding it on ding doo. You saw me standing alone without a dream in my heart, without a love of my own. Bom bom bom bom bom bom bom for dang dang dang for ding it on ding doo. For dang and dang dang for ding and all ding boom. Boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom for dang and dang dang for ding and all ding boom. Bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom for dang a dang dang for ding a dong ding blue moon. E ci siamo. Siamo ritornati con vari tentativi di contattare i nostri altri co-conduttori, ma c'è chi ci risponde e c'è chi no, e comunque ci abbiamo gradualmente alla chiusura. Ma ci prenderemo, visto che siamo partiti in ritardo, un buon 20 minuti ancora per stare con voi. Assolutamente sì, sforiamo un pochettino. Tra l'altro abbiamo appena provato a sentire il mulo, ma neanche lui risponde. Oh, vabbè, quindi potremmo mettere intanto la sigla della rassegna 20, perché comunque questo fine settimana sarà ricco, se non proprio di eventi fisici, ma almeno di commemorazione, insomma, di momenti importanti. E allora, mettiamo la sigla della rassegna 20. Pronti? A udirla per la centesima volta. Vai. Ale, ale. Che bellezza! Che bella anche questa sigletta! Allora, iniziamo da oggi, 17 aprile, e leggiamo subito un articoletto. Oggi non è il 17 aprile. Mamma mia, allora non ce la posso fare. Iniziamo forse dall'evento clou. cioè nel senso il 17 aprile noi non saremo in piazza, però oggi ci piaceva dare rilievo tutti a questa data. Che succede il 17 aprile? La giornata mondiale della lotta contadina. E quindi luglio... sì. Quindi? No, si va fa. Bene, ora, che si fa? Il 17 aprile ormai dal 1997 la Via Campesina ha dato vita a questa iniziativa mondiale, quindi in tutte le realtà della Via Campesina, che è un'organizzazione presente in più di 70 paesi in tutto il mondo a sostegno dell'agricoltura contadina, con più di 200 fra reti e gruppi e organizzazioni che ne fanno parte. E ha organizzato questo appuntamento fisso di sostegno alle lotte contadine proprio in questa data, perché questa data è la ricorrenza di un episodio tragico, tremendo, che è avvenuto in Brasile appunto il 17 aprile del 1996, quando la polizia militare, scatenata in un momento particolarmente repressivo della dittatura militare che c'era in quel periodo, il presidente Cardoso, ha ucciso più di 20 contadini che stavano manifestando e stavano facendo una lotta per la riforma agraria, per l'ottenimento di un pezzo di terra a scapito del latifondo nella regione del Pará, nello stato del Pará. E appunto si sono accaniti con questa manifestazione perché stavano bloccando un'arteria, una strada principale in questa zona del Pará, e appunto hanno perso la vita 20 persone in maniera veramente assurda, perché poi con gli scontri sembra dalle testimonianze che c'erano poco meno che 10 morti sul campo, tutti gli altri erano feriti, e i feriti che non sono riusciti a scappare, quindi a sottrarsi dalla carica della polizia, sono stati uccisi a sangue freddo, giustiziati al momento. Quindi è stata proprio una cosa di una ferocia incredibile, e questo eccidio, questa strage è ricordata tutti gli anni il 17 di aprile, appunto, con questa giornata mondiale per le lotte per l'agricoltura contadina, per il diritto ai popoli della sovranità alimentare, della dignità di un pezzo di terra su cui coltivare, su cui fare un'attività contadina, che come espresso chiaramente da tantissimi documenti e tantissime cose che esprime la Via Campesina, appunto l'agricoltura contadina agroecologica è un'agricoltura che non mira all'ottenimento del profitto, ma mira all'ottenimento di una vita dignitosa, alla produzione di cibo salutare, alla produzione di e a una vita a contatto con la natura e per la natura. E alla salvaguardia della natura. Quindi niente, in questa giornata che un po' ovunque si stanno organizzando qualcosa, insomma, in commemorazione, abbiamo pensato noi della rete fiorentina che il giorno prima, quindi il 16 aprile, che è venerdì, dove ci sarà il mercato di Piazza Tasso, faremo un momento pubblico in cui parleremo della nostra situazione e anche ricorderemo il motivo di questa manifestazione mondiale, e aderiremo tutti insieme ricordando questo episodio. Perché ricordiamolo che purtroppo bisogna sempre continuare a lottare, insomma, per l'agricoltura contadina, e quindi ci sono lotte, facciamo noi nel nostro piccolo, abbiamo sentito anche prima, insomma, i contadini genuini di Campi Aperti, lo viviamo tutti i giorni noi qui dalla provincia di Firenze, nonché tantissimi altri contadini sparsi in tutta Italia, ma non solo. Ricordiamo anche che ci sono ormai da mesi delle lotte contadine in India, portate avanti, insomma, come rivendicazione, e i Sem Terras dal Brasile che continuano costantemente a lottare. Quindi ammazziamoci in questo momento. Quindi tutti in Piazza Tasso venerdì 16 al solito orario del mercato. Sì, sì, durante il mercato, quindi più o meno a metà pomeriggio. Vabbè, e altri appuntamenti, comunque ricordiamo che ci sono comunque sempre i nostri mercati, quindi da domani il mercato a Pontassieve, che anche lui sta lottando contro, insomma, queste normative gli stanno imponendo, e si spera, insomma, che non porteranno alla chiusura, ma anzi al miglioramento e all'ingrandimento di questo mercato. Venerdì in Piazza Tasso, martedì all'Isolotto. Chi più ne ha più ne metta. Poi si può fare anche un rapido sguardo alla punta.org, in cui gli unici due eventi in programma sono un aperitivo con Jam Session questo giovedì 15 aprile, quindi domani alle ore 16, Viale Corsica 81, una jam, benefit, blocco comitato antisfratto, porta quello che vorresti suonare. E allo stesso tempo abbiamo invece il giorno dopo, quindi venerdì 16 aprile, al cantiere sociale Camilo Cienfuegos, la presentazione di un libro chiamato L'eco delle catene, di Ahmad Sadat, che è il segretario generale del FPLP, e via, c'è questa la presentazione di questo libro alle ore 21, anche in streaming. Bene, partecipiamo, ormai sono pochissimi gli eventi che si annoverano sulla punta.org e comunque nei nostri calendari, ma ben venga che comunque ce ne siano e che il morale sia sempre alto. Assolutamente. Oh, mandiamo l'ultimo pezzettino e proviamo gli ultimi collegamenti. Vai, mandiamo l'ultimo pezzettino, se si aggancia qualcuno bene, se no ci saluteremo. Vai. Yeah. Ed eccoci tornati. Frittole live. Eccoci qui. E gli ultimi due contatti, abbiamo provato a chiamare Gineprina e il Mulo, ma non ci danno di. Si rendono, sì, si rendono il Mulo così. Non vuole proprio darci soddisfazione. Il Mulo lo fa apposta. Gineprina secondo me no, perché sarà chissà in quale sottobosco a raccogliere bacche e erbe spontanee. Ma noi nonostante tutto li salutiamo e li ringraziamo tantissimo per i loro preziosi contributi. Ringraziamo. E allora via, facciamo il giro di una carrellata. Vai, tutto lì, vai. Allora, ci siamo scritti la listina. Allora, innanzitutto questo non lo dovevi dire, perché se siamo dimenticati alcune sono dolori. già qui chiediamo scuse in anticipo, perché sicuramente ci saremo dimenticati a coloro di che non abbiamo chiamato. Po Palmiro, e poi metteremo iniziamo dalle persone più vicine, fanno proprio parte della redazione, no? Quindi Beppi Manin, Eila, Palmiro, e poi abbiamo anche Rosso, che ha contribuito con le letture bellissime, e poi la Gineprina, che ormai è da più di un anno che è la nostra esperta in materia di natura spontanea assolutamente e selvatica. E poi ci abbiamo la Clio, che è un po', diciamo, l'ultima arrivata, che però insomma con la sua rubrica Cuochi Ribelli è partita bene e ci dà un sacco di soddisfazione. Subito inserita alla molto grande. Interessante, esatto. E poi qui appunto ci abbiamo anche un po' di persone che in questi tre anni hanno gravitato con costanza, hanno gravitato intorno alla radio, e quindi ci ricordiamo di Morgana, un grande abbraccio, di Diesis, Rosa Canina e di Sancho anche. E qualcun altro sicuramente, eccetera, sì, perché sono tantissime, grazie a Dio le voci hanno voglia di raccontarsi Radio Contado e di aggiornarci, di essere presenti. Grazie a tutti. Io voglio ricordare anche tutta la redazione di Nunatak, che comunque sono sempre presenti con le loro contenuti nelle nostre puntate, ma anche nella nostra testa, quindi grazie anche a loro. I collegamenti, esatto, con gli amigos del Movimento Sem Terras, che ci aggiornano costantemente dal Brasile, e gli amici anche di Malamente. Grazie. Abbiamo qualcun altro sulla Mamma lista. Wombat, sì, ringraziamo soprattutto Mamma Wombat per darci questo spazio super costante. Wombat, che rende possibile tutto ciò. Mi raccomando, ascoltate non solo Radio Contado, ma tutto il resto che gira su Wombat, che è molto molto interessante. Praticamente passate la giornata alla radio. Davvero. Che non fa male, fra musica e contenuti. E poi un ringraziamento anche agli Incamiscia, ufficialmente direi, no? Assolutamente. E Lady Liviet, che non l'abbiamo nominata. Lady Liviet, giustissimo. Vabbè, se qualcuno era scritta sulla lista, se sentite escluso, se qualcuno si ricorda di altri nomi che vale la pena. Io volevo salutare un mio amico, ma lascio. Scriveteci, scriveteci. Amico, quello di San Frediano. I Vieri. Con cui si era tentato un inizio di rubrica Moccoli e Malati. Ci siamo persi di vista, ma presto. Prossimamente. Ripristineremo il canale in diretta dai quartieri. Grande, poi sì. E poi grazie a tutti e grazie a voi che siete qua oggi, grazie Reve, grazie Dottor Io, grazie Modessa, grazie Ruvido, grazie Grigio. Grazie Dama. Ho fatto apposta perché volevo il corretto. Bene, ora noi ci lasceremo andare a Brindisi e a merende, c'è una bella torta lì che ci aspetta. La vedrete nel podcast. Si festeggia duramente. E mandiamo un altro pezzo a caso dalla stagione 1. E a sto punto ci sentiremo alla settimana prossima. Alla 101. Saluti 101. 101. A tutti. Ciao. C'è una ferita in fondo al cuore, grande come non l'hai vista mai. Guarda il sangue, il suo colore è bellissima. Mm.